Container. L'approfondimento settimanale su autotrasporto e mobilità di Massimo De Donato. A poche centinaia di chilometri dall'Italia si affaccia un continente che nel solo 2016 ha rappresentato per il nostro paese più di 17 miliardi di esportazioni e quasi 17 miliardi di importazioni. Un interscambio fatto principalmente di prodotti minerali, chimici e derivanti dalla lavorazione del petrolio, di apparecchiature elettriche e di macchinari. Relazioni commerciali significano però anche trasporti, perché ogni bene ha bisogno di essere trasferito. Fra instabilità politica, problemi di sicurezza sul territorio e un deficit infrastrutturale innegabile, l'Africa è una regione particolarmente complessa per gli operatori italiani che devono assicurare la movimentazione delle merci, pianificando ogni dettaglio lungo tutto il tragitto. Salve a tutti da Massimo De Donato, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Container, l'approfondimento settimanale di Radio 24 dedicato al mondo dei trasporti e della logistica. E oggi ci occupiamo di un mercato sicuramente molto interessante, un mercato molto vicino all'Italia. Parliamo di Africa, come avete ascoltato anche dalla nostra scheda iniziale, un mercato che rappresenta per il nostro paese circa 17 miliardi di esportazioni e 17 miliardi di importazioni. Questi sono dati relativi allo scorso anno. Di questo mercato, ma anche di come le imprese italiane di trasporto stanno affrontando questo mercato, parliamo oggi in compagnia dei nostri ospiti. Vi presento quindi Marco Saladini, dell'ufficio pianificazione strategica dell'ICE, l'agenzia per la promozione all'estero delle imprese italiane. Buon pomeriggio Saladini, grazie per essere con noi. Grazie a voi dell'invito e un saluto a tutti gli ascoltatori. E vi presento anche Alberto Riboni, che è il responsabile trasporti internazionali di Unitai, ma anche titolare di un'azienda, la Riboni RBN SRL, che è appunto fortemente impegnata in Africa. Buon pomeriggio anche a lei. Grazie, buon pomeriggio, grazie dell'invito. Allora, cerchiamo di fare prima, come dire, una fotografia dell'interscambio commerciale con l'Africa e ovviamente la chiedo a Marco Saladini dell'ICE, a cui chiedo però innanzitutto anche di spiegarci molto brevemente l'importanza di questo strumento per le imprese italiane. Diceva lei, è un'agenzia del governo e le sue attività sono tutte rivolte a facilitare l'inserimento di imprese italiane sui mercati esteri, che siano in veste di esportatori, importatori o detentori di partecipazioni in imprese estere o partecipate a loro volta da investitori esteri. Alla promozione, che è diretta a gruppi di imprese omogenei per settore, si affiancano servizi di assistenza personalizzata, formazione e informazione. Abbiamo siti in italiano e in inglese, ice.gov.it e quello in italiano. In Africa abbiamo 9 uffici nei paesi Algeria, Angola, Egitto, Etiopia, Ghana, Marocco, Mozambico, Sudafrica e Tunisia, e alcuni di questi uffici sono competenti anche per paesi non direttamente presidiati. Certo, quindi è una presenza importante in Africa. Ecco, ci dia due numeri, in particolare che cos'è che importiamo ed esportiamo? Diciamo che dal lato delle esportazioni, macchinari, i prodotti raffinati del petrolio, metallurgici e apparecchiature elettriche sono i settori che la fanno da padroni. Noi abbiamo comunque una presenza commerciale per quanto riguarda le esportazioni molto forte in Africa settentrionale, e quindi per la manifattura i paesi dell'Africa settentrionale sono particolarmente rilevanti, anche se nell'Africa subsahariana vendiamo rispetto al totale dell'Africa un 50% dei mobili, prodotti in metallo 41%, elementi da costruzione in metallo 41%, quindi non è del tutto marginale la certo. Parte a sud del Sahara, insomma. È comunque una parte importante e ovviamente dovunque ci siano dei beni c'è bisogno di trasporto. Alberto Riboni, proprio lei ha, come dire, l'Africa nel cuore, visto che sono anni che lei lavora in quelle aree e tra l'altro ha appena aperto una nuova rotta, se non sbaglio, con il Senegal. Siamo presenti da 14 anni in Marocco e di conseguenza lo sviluppo anche commerciale, la richiesta sempre più da parte dei nostri clienti che già operavano da diversi anni in Marocco, si stanno sempre spostando più sud e in questo caso stanno sviluppando dell'agricoltura molto intensiva, soprattutto per quanto riguarda i meloni e i fagiolini in Senegal, e da qui la nostra necessità di offrire al mercato anche questa opportunità ben sapendo le difficoltà soprattutto logistiche e infrastrutturali. Il Marocco è molto lungo, non è distante dal Senegal, ma abbiamo quegli 800 chilometri della Mauritania che fanno la differenza e ci hanno imposto uno studio di fattibilità che è durato 2 anni e mezzo. Ecco Riboni, prima parlavamo delle problematiche legate alla logistica. Quali sono le principali difficoltà che deve affrontare chi opera oggi in Africa? Sono dal punto di vista doganale, perché non esiste, la Mauritania è uno stato ancora sotto una ligia militare, quindi abbiamo problemi anche di dialogo, non ci sono delle regole, non siamo coperti dalle assicurazioni, non c'è nessuna compagnia assicuratrice che assicura le merci, i mezzi di nostra proprietà che attraversano questo stato, quindi è tutto un duro lavoro che è durato da 2 anni e mezzo e siamo riusciti a realizzarlo quest'anno, ma è ancora un'impresa ed è ancora un tragitto molto difficile, ma che questa nostra volontà di Africa, di amore per questo paese, ma soprattutto di sviluppo, di opportunità per gli importatori e esportatori italiani di raggiungere questi mercati con modalità che vanno dai 7 giorni da Milano a Dakar e dando la possibilità alle aziende di accingersi a questi mercati che senz'altro saranno il futuro della nostra economia. Saladini, prima abbiamo fatto una fotografia della situazione attuale della bilancia commerciale tra Italia e Africa. Qual è l'andamento di questi ultimi anni? Diciamo che l'Italia e l'Africa hanno una relazione che è abbastanza stabile. C'è una quota che possiamo menzionare dell'Africa sulle esportazioni totali italiane che è rimasta comunque intorno al 4% nel decennio 2007-2016 e anche quella sulle importazioni, sempre al netto degli energetici, è rimasta attorno al 2% con qualche decimale in meno. Quindi una relazione stabile che però sta cambiando nel tempo con un ridimensionamento, seppure relativo, del ruolo fortissimo degli energetici che quindi aprono a beni finiti e questo consente naturalmente alle imprese di logistica di guadagnare spazi. Certo, quali sono invece secondo lei le prospettive future? Prospettive future diciamo che sono sicuramente buone perché il continente sta crescendo più del resto del mondo, quindi insomma dobbiamo assolutamente essere attenti alle opportunità, anche per questo noi abbiamo aperto parecchi uffici negli ultimi 2-3 anni. I trend sono l'evoluzione demografica che è fortissima, è una urbanizzazione che crea e apre nuovi spazi al ceto medio e poi le infrastrutture che devono assolutamente svilupparsi per consentire un tenore di vita più dignitoso e migliore alla popolazione. Riboni, ritorniamo al tema dei trasporti. C'è sicuramente a questo punto un problema di costi che in Africa e per trasportare merci in Africa saranno decisamente più alti del normale. Oggi i costi logistici sono ancora molto importanti, ma c'è ancora una domanda, un'attenzione sempre al prodotto per tutto l'anno, senza più passare alla stagionalità, e quindi sempre di più c'è necessità di trasporti a temperatura controllata e i trasporti di frutta e verdura. C'è qualche aneddoto, qualche episodio che può raccontarci e che in qualche modo sia emblematico delle difficoltà che vivono gli imprenditori italiani del trasporto che vogliono in qualche modo operare in Africa? Soprattutto l'Africa è un paese molto vecchio geograficamente, ma molto giovane, dove la crescita demografica è un paese in continua espansione, si sta formando un ceto medio con una voglia di fare impresa, di strutturare le aziende, di avere un futuro per le nostre attività, dove oggi in Europa, un'Europa unita ma molto differente, dove noi non possiamo più essere competitivi e tenere quote di mercato, quindi le difficoltà, oltre alle difficoltà logistiche, altre difficoltà non ce ne sono, c'è un grande spirito di crescita, una grande voglia di fare e quindi ti porta anche noi imprenditori a vedere l'Africa come una possibilità, un'alternativa di mercato dopo aver perso il mercato della Russia, mercati importanti che ci hanno permesso di andare avanti le nostre aziende fino agli anni 2000. Bene, termina qui anche questa puntata di Container, prima di lasciarci vi ricordo che questa è una produzione realizzata in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Comitato Centrale dell'Albo degli Autotrasportatori, e vi ricordo anche il nostro indirizzo email che è container@radio24.it. La nostra trasmissione ritorna come al solito sabato alle 13:15 circa. Un saluto a tutti da Massimo De Donato.